anni volano attraverso lacrime e mi chiedo perché vivere con la paura e il terrore che opprime e devasta la libertà. Piange, questa terra piange, prigioniera piange, rubata la sua identità. E tu continua a lottare contro gli invasori, un'alba rossa nascerà. Perché nessuno è schiavo e non vogliamo prigionieri, ma diritti e non dittature. Liberiamo questa terra occupata dal potere, calpestata e umiliata come madri che piangono. Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, lotta per la libertà. Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, lotta per la libertà. Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, lotta per la libertà. Libertà, libertà, libertà, Balochistan. Questo non è cenere, dolce terra incatenata, i tuoi figli sono un volto della luce del cielo. Il nemico non si arrende, sulle mani la violenza, i suoi occhi pieni d'odio e distrugge ogni età. I nostri fiori sono rossi, cresceranno sempre di più, e le radici sono forti e non moriranno mai. Aspettiamo un nuovo giorno per guardare in faccia il mondo, questo mondo quasi cieco che non vede le atrocità. Questa terra è nata libera, riconosciamo il suo diritto, ma tu la strappi brutalmente, ma che diritto hai? Grida forte le ingiustizie, umanità non dormire, la speranza di una vita è nelle nostre mani. Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, lotta per la libertà. Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, lotta per la libertà. Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, Balochistan, lotta per la libertà. Libertà, libertà, libertà, Balochistan.